Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Cos'è? Tieni già banco la puerpera qua. No, tua moglie dice che tutta questa competizione non fa bene ai ragazzi. Non mi sembra proprio. Guarda il Massi come è in forma. Bello tonico, pronto a castigare gli avversari. Aspettiamo, dai. Secondo me è dannoso. Io penso che a quest'età generi soprattutto insicurezza e ansia. La veda come una fortuna, cara dottoressa, visto il lavoro che fa. Guardi che io lavoro in una struttura pubblica. No, lo perdoni, Gerard è un avvocato d'affari, tende a vedere tutto dal lato del profitto. Da circa un anno ho un prurito concentrato nella pianta dei piedi, in testa e nella zona vulvare. No, sto leggendo un sms della trasmissione che mi ha preceduto per tenere una sorta di filo continuo di argomenti. Stiamo parlando anche qui di qualcosa che riguarda la patologia. È una psicologa a parlare, si siede a un tavolo di uomini d'affari, è l'unica che fa un lavoro vero, concreto, si occupa delle sue pazienti. È una situazione piuttosto delicata perché in realtà su marito la sta trascinando una sorta di salto quadruplo nella piccola società di una piccola provincia d'Italia, ambientata come luogo dell'immaginario, in una Brianza che si è molto poi irritata di questo. Stiamo parlando del Capitale Umano, l'ultimo film di Paolo Virzì, che è uscito nelle sale giovedì scorso. Io lo vidi subito, volevo parlarne venerdì, poi dico diamo il tempo agli italiani di vederlo un attimo, e oggi vediamo quanto voi vi siete sentiti rappresentati da questo film, che parla di una società scellerata, una società spietata, una società basata semplicemente sull'accumulo immediato alle spalle della difficoltà del paese. L'accusa è stata fatta a Paolo Virzì: hai fatto un film ideologico, hai colpito la Brianza perché è la terra di Berlusconi, è l'ennesimo film contro il berlusconismo. Ci sono delle citazioni, ci sono dei punti in questo, ma non si può ignorare, comunque è una sorta di atteggiamento legato alla società in generale del nostro paese, ma non ho trovato un film ideologico, ho trovato un film molto bello. Lo dico con felicità il giorno in cui La grande bellezza vince il Golden Globe, un altro film che era stato preso in contropiede da tutte le menti pensanti, i grandi intellettuali, i controintellettuali, i Marco Giusti, tutti c'erano, dicono, che schifo, non è questa Roma, non è la Roma dei Salotti, è venuto, ha sbirciato, occhieggiato, ma ha fatto il suo film. Però è un film che comunque all'estero viene apprezzato, è un film fantastico, un film poetico. Perché in Italia ci si arrabbia sempre quando un film cita un luogo geografico? Non ce ne importa niente, deturpiamo il nostro territorio, spolpiamo le proprietà pubbliche dove abitiamo, siamo implacabili, infami con i nostri vicini di casa, con i nostri parenti, i nostri amici. Poi un film ci rappresenta, subito ci alziamo le scudi, le vestali, subito si stracciano gli abiti, si strappano i capelli, hai toccato la Brianza, cosa è successo, cosa qua, cosa là. Mandiamo una clip di questo film e poi chiederò la domanda a un personaggio che sta qui in studio e scalpita per dire la sua. Scusa, Giova, ma potrei parlarti un attimino? Dillo, scusa tu, siamo un po' presi. Sì, sì, no, ma basta un minuto, guarda. Scusate, Scusate ancora. Cosa c'è? Senti, Giova, ci deve essere stato un problemino di comunicazione, capito? Non ho capito, scusa, cosa significa? Non è colpa mia, Io non mi posso proprio permettere di perdere tutti quei soldi. Te lo dovevo dire, lo so. T'ho già spiegato che questa è una roba temporanea. Sì, ma lo so, ma allora magari possiamo trovare un accordo tra di noi, no? Accordo cosa? Non capisco. A me basta rientrare, andare pari pata, Giova. Ma cos'è pari pata? Partita a scopa, no, dai, no, cosa senti cosa ho pensato. Ho avuto un'idea bellissima, dai. Io te la dico, poi mi dici sì. Tu mi ridai tutto il... È una questione schifosa di soldi, un arrampicatore sociale, un piccolo agente immobiliare, orrendo, schifoso, infame, corrotto. Una botta di culo la figlia, se la tromba un passant, il figlio del personaggio importante del paese, capito? Quindi lui si approfitta, si insinua nella vita adorata di queste persone per grattare un po' di formaggio dal fondo che hanno loro, che guarda caso in quel momento va male, quindi lui si trova un bel paletto infilato nelle chiappe e non riesce a gestire la situazione. Sansonna, buongiorno. Una delicata sintesi. Giuseppe Sansonna, sì, tu puoi portarla su piani più elevati. No, senz'altro, mi mantengo in tono, ma il vero film, il vero fulcro di questo film è una magnifica Valeria Bruni Tedeschi che fluttua leggiadra sulle ali dell'Exotan, una sorta di riedizione della Vitti antonioniana, però calata in questa Brianza immaginaria, chiede allo squalo Gifuni, al marito che tu citavi appunto, che avrà a che fare poi con questo bentivoglio un po' macchietta, infatti sono un po' tutti macchiette a parte la Bruni Tedeschi, che è un personaggio che ha una sua autenticità nello straniero guadagnarsi nel notare che la gente è stanca quando torna dal lavoro, però sempre con questa... Sì, la sua stanchezza è farsi portare dall'autista in una sorta di amletico dilemma fra l'antiquario, l'estetista, la persona che vende le scarpe, via dicendo. È la signora che non c'è niente da fare, è stata acquistata perché è bella dal marito, è un gadget interessante, se la tiene in casa, lei ha ambizioni culturali, teatrali, c'è un'orribile scena in cui tu devi sentirti personalmente coinvolto, sì, sì. Un piccolo professorucolo di paese. Quante volte? La seduce davanti al DVD di Carmelo Bene, il tuo film preferito. Certo, poi. Nostra Signora dei Turchi. Le mette la mano fra le cosce come un infame, dentro l'autobus fa una povera cameriera filippina, capito? Un maniaco. E lei si concede a lei una scena deliziosa. Ecco, in questo cosa ci vedi? Io ci vedo un Locascio caccializzato, anche un po' alla Satta Flores. Questa è la cosa che ha dato fastidio, sì. C'eravamo tanto amati, e quando guardano questo film, che tra l'altro ha quella scena meravigliosa in cui la Mancinelli seduce un Carmelo Bene sfasciato sul letto dicendogli ti perdono in realtà violentandolo, e questa è la scena che innesca l'erotismo subspecie perversa. Che lei si leva le mutande. Sì, sì, è lì che le esce dal momento di noia, insomma. E lui rimane lì passivo come uno schifoso barbiere di paese delle Puglie, in uno smorzacandela senza nessuna passione, senza nessuna poesia. Tommaso Labranca, buongiorno. Buongiorno. Nostro profeta Tommaso Labranca nel 1995, lui non vuole che se ne parli, ma oggi è indispensabile. È una casella filologica che devi aggiungere alla nostra dissertazione. Castelvecchi 95 scrisse Estasi del pecoreccio. Perché non possiamo dirci Brianzoli? Una fase fondamentale del Labranca pensiero in cui individuava questa sorta di barocco brianzolo, questa nuova estetica di cui ancora nessuno parlava. Il grande precursore Labranca cozze lì alcuni punti fondamentali che avrebbero in qualche maniera condizionato il nostro pensiero da oggi fino a Virzì. Sei d'accordo? Sono d'accordo, sì, ma se l'ho fatto è per un motivo ben preciso, Gianluca, perché io conosco la zona, conosco gli abitanti, ho a che fare con loro tutti i giorni e non mi metto a fare il moralista che arriva da dove arriva e dice vabbè, mettiamo un gruppo di attori, li facciamo allargare le vocali, così facciamo la Brianza e ridiamo e diciamo come sono cattivi, come sono perfidi, che brutta gente, perché è inutile che adesso stanno tutti dicendo che non è la Brianza, perché nelle prime interviste il caro Virzì aveva detto che era in Brianza, perché cercava un posto freddo e desolato e che gli facesse paura come la Brianza. Allora, se Virzì è veramente venuto a vedere la Brianza e il barocco brianzolo delle villette briantee che tanto gli fa schifo, si sarà accorto che è una terra bellissima, verde, con le montagne. Quello si vede, quello si vede, quello lo fa vedere. E allora perché? Perché da queste a me del film non interessa niente, il film l'ho trovato noioso. La cosa che mi ha interessato è stato il ciclista morto. Di cui non parla nessuno in realtà. Ma sai perché mi ha interessato? Perché mi ha fatto pensare a Testori, capisci? Ho detto, oh che bello, c'è una citazione testoriana. Invece no, poi si perde, la cosa si è persa. Ecco, non voglio rivelare molto per chi non l'ha visto, tutto si basa su una sorta di delitto stradale, un povero ciclista che tornava da un lavoro infame, viene travolto e viene ucciso, ma di cui non se ne parla mai, non ne frega niente a nessuno. Ecco, in questo momento non abbiamo assolutamente bisogno di fomentare dell'odio, perché già ce n'è abbastanza, perché basta vedere cosa succede appena si parla, che so, ti ricordi il caso dei pomodori? Figurati. Pomodori campani, ecco, i commenti sulle pagine dei quotidiani online erano terrificanti, c'erano quelli che si firmavano profondissimo sud e odiavano i nordici, ma non è il momento di creare proprio queste differenze, questi odi, queste contrapposizioni, perché non è assolutamente il momento. Senti, ma dell'estetica brianzola è stata almeno rispettata, diciamo, la tua analisi filologica? Tu sei fantastico, no, in quel libro, scusa, sei l'unica persona di cui ogni tanto mi esprimo in questi termini, perché la mia formazione degli anni 90 la devo in parte al tuo libro su Andy Warhol, che era ancora atto, e questo sull'estetica brianzola, mi fece capire molte cose. Ecco, è stata rispettata anche una finta Brianza nella sua versione esornativa, costruita, capito? Il palazzo del protagonista non mi sembra molto barocco brianzolo, sinceramente. No, perché il barocco brianzolo non nasce dai ricchi, nasce nelle famiglie piccolo borghesi appena benestanti. Cioè il fenomeno della taverna, è presente il fenomeno della taverna? È la tavernetta, certo, la tavernetta. Oh, che le pareti rivestite di legno compensato per linato, la fanno sembrare una baita. Esatto, ma soprattutto poi questa casa inferiore in cui vivono, cioè la famosa taverna, e poi la casa superiore che è soltanto di rappresentanza, ma questi non sono i ricchi cattivi, è gente che ha cominciato a lavorare tanti anni fa, e in un film particolare la cosa si vede, e non so se Virgilio ha visto il film, si chiamava Il Posto di Ermanno Olmi, siamo all'inizio degli anni 60, film bellissimo, in cui si vede veramente chi erano i brianzoli, gente che abitava appunto ad Esio, località limitrofe, si alzava la mattina, prendeva il treno, veniva nella città cattiva, perché loro vedevano Milano come una città cattiva, perché? Perché c'era l'impresa, la grande multinazionale che poteva dargli il posto di lavoro, che era cattiva, nel senso che la strappava da casa, la faceva lavorare lontano da casa, la costringeva a mangiare fuori casa a mezzogiorno, che ai tempi era una cosa inconcepibile. Rompevi di ritualità millenarie. Esatto, però con queste fatiche, queste umiliazioni, c'è un certo tipo di persona che è riuscita a crearsi la casa con la tavernetta e sopra la casa di rappresentanza. Ora, far passare questa zona, questa popolazione, per il coacervo di tutte le cattiverie e di tutti i mali che stanno vivendo oggi, mi sembra un'esagerazione. Citazione berlusconiana, tu dici? Certo, perché c'è sempre la colpa del grande ricco. Quando l'Istat comincia a diffondere i dati sull'Italia, sul benessere italiano, sulla distribuzione della ricchezza, si vede naturalmente che in Lombardia i dati pro capite sono più alti, perché essendoci una decina di miliardari, naturalmente poi la media ci fa sembrare tutti ricchi. Beh, io vorrei dire finalmente la nazione che così non è, perché qui c'è molta gente che non è miliardaria, però poi si vede suddiviso questo benessere, anche se non gli appartiene, grazie ai calcoli dell'Istat. Sentiamo Giovanni. Giovanni, ascoltatore, buongiorno. 800 24 00 24, un ascoltatore mi accusa, hai fatto un grande spoiler. No, ho detto due o tre particolari, non ho detto nulla di più di quello che leggete nei giornali, nelle recensioni. Giovanni. Buongiorno, sono Giovanni da Brescia e ho 51 anni, ho visto il film ieri sera proprio, quindi la sentita sua trasmissione ha chiamato, ma guarda, io mi ero, si dice, incuriosito per le critiche che avevano fatto sul giornale da parte della Brianza, Virzini, qua di là, ma onestamente io che ho anche un passato che ha lavorato in banca e che vive in una realtà simile a quella brianzola, non mi sono stupito di niente. In buona parte così. Quindi l'ha trovato coerente, aderente dal suo punto di vista. Coerente sì, anche perché ai tempi dove lavoravo in banca, che aveva preistoria, comunque c'era gente che si faceva dare i fidi per fare operazioni su fibre derivati. Cioè, ecco, da quel punto di vista lì non è cambiato niente, grazie a Dio, sia la Brianza, sia la provincia lombarda, come Brescia, Bergamo, che lavorano, si arricchiscono e si sono arricchite e puntano al denaro, hanno anche tanto volontariato, la maggior parte dei missionari vengono dalle nostre parti, c'è un forte senso di solidarietà e vedete che gli stranieri che ci sono qua da noi sono quelli più, il numero più alto che c'è in tutta Italia, perciò è uno spaccato comunque molto reale e io non capisco cosa e perché si siano indignati i brianzoli. È così, indignati, qualcuno si è indignato, noi diamo uno spaccato di tutti i punti di vista, è chiaro che non esiste un punto di vista unico. Mi scrivono altre persone arrabbiate, questi film sono fatti per avere i contributi statali. Oh, posso dire una cosa, me ne prendo la responsabilità. Sono stati dati contributi statali a fetecche innominabili. Questo è un film che secondo me ha meritato il suo contributo statale. È un bel film, ben girato, ben fatto. Poi Sansonna mi conforterà anche questo tipo di giudizio, ma tra un istante dopo il traffico. Melog. Cronache meridiane. Comunque bisogna capire qui cosa intendiamo con sperimentale. So, nelle bozze ho provato a riferirmi anche a esperienze nuove, come la Raffaella Sanzio. Raffaello Sanzio. Il loro Amleto è del 1992, poi. Amica mia, noi tutti qua siamo dei lettori appassionati delle tue severe recensioni sulla Prealpina. Veramente appassionati. Ci chiedevamo, ma c'è qualcosa che ti piace, qualcosa che ti interessa, che apprezzi? Così magari ne teniamo conto, no? Cosa apprezzo io, chiede il professor Russomanno qui. Niente. Il teatro è morto. Credo che questo sia chiaro a tutti, no? Sì, infatti un po' è vero. Buona a sapersi, visto che per Giuseppe Sansonna, dal punto di vista proprio del tuo osservatorio, la ritornare sul fatto di una delle tante polemiche attorno a questo film, gli andati contributi statali, secondo me in questo caso, al di là del fatto non può accontentare tutti un film, era girato bene. Il film è tratto anche da un romanzo americano, si chiama proprio Il Capitale Umano. Sì, di Stephen Hamilton, ambientato nel Connecticut, e quindi lui porta la Brianza a diventare Connecticut. Questa che abbiamo sentito è una clip della scena più bella del film, in cui lei appunto deve assegnare i ruoli del teatro, c'è la critica marcita, c'è appunto il Satta Flores di Locascio, e in questo dibattito emerge qualcosa che non riguarda la polemica brianzola, ma riguarda l'Italia, le velleità di questa lamentosa Valeria Bruni Tedeschi. Comunque, parlando della struttura del film, è l'assenza totale di una dimensione corretta della cultura, appiccicaticcia, cioè sì, sono tutti leghista, velleitari, c'è il vecchio con barba grotoschiana che ha stretto la mano a Pirandello, cioè lì funziona. Il peggiore però è il professor Rucolo di scuola media con velleità di artista. Sì, con la casa ancora da studente intrisa di fumo di Marlboro, di Fernet Branca. Anche lui? Non credo. No, è siciliano, è Locascio, è siciliano. Sì. Comunque, parlando invece della struttura di sceneggiatura, che secondo me presenta, a parte la Bruni Tedeschi, molti cliché, molti personaggi si autopresentano, si autospiegano un po' troppo per funzionare all'interno di un meccanismo di sceneggiatura molto cadenzato, ritmato, molto meccanico, in cui si sentono proprio gli ingranaggi, però funziona perché gli dà ritmo e fa risaltare poi i personaggi più Andrea, 800240024, velocemente il vostro parere su questa sorta di analisi che viene fatta comunque dal film italiano, alla commedia italiana, dalla nostra società. In questo caso, come qual è stata la vostra reazione? Andrea, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, io... Lei come Brianzolo, lei è Brianzolo, che dice sono, Nicoletti. Sono di Saron, non sono di... però sono molto vicino alla Brianza e come mentalità, come trascorsi, sicuramente sono più vicino al personaggio di Bentivoglio. Quello che volevo dire... L'infame che professore vedendo... che si approfitta della povera Brunica. No, ah, Bentivoglio. Sì, il giovane... Il velleitario che vuole fare l'investimento. Ero molto prevenuto, invece poi mi sono un po' spaventato nel constatare come quella macchietta fosse tremendamente vicina alla realtà. È un po' forzata, comunque. Vero. Però un'altra cosa volevo dire, nella Lega e in altri movimenti politici tendenzialmente di destra sono levate queste critiche per me immotivate, eppure una volta, io che sono più vicino alla destra come ideologia, nessuno a sinistra però si è scandalizzato per il professore che comunque a suo modo una macchietta del professore disilluso dalla realtà in cui tutto quello che succede è colpa degli altri ma è colpa sua. Sanson, secondo me gli stereotipi sono necessari, diventano necessari perché la realtà si è stereotipata, quindi per parlare un linguaggio a un pubblico assuefatto al linguaggio televisivo, questo film infatti funziona per quello, insomma. Poi risentiamo un attimo la Branca perché c'è un sms che lo riguarda. Vado a sentire Stefano Morigi, vuol dire che c'entra Morigi, che l'ha chiamato l'altro giorno come filosofo della scienza, perché Morigi è Brianzolo. No, allora Nicoletti, calma, io guardo alla Brianza come un entomologo le farfalle. Ci abiti morte, però. Ma sono nato a Milano e trovo occasionalmente ad abitare a Monza, sì, che in qualche senso è la perché capitale. Perché rinneghi la tua terra che ti ha accolto così a braccia aperte? Perché non è la mia terra, mi ha accolto anche, diciamo, criticamente, perché non c'è un rapporto di sintonia tra me e la Brianza, più che altro con la mentalità brianzola. E qual è? Tu l'hai visto il film, Stefano? Sì, l'ho visto ieri sera qui a Roma. Vediamo, analizziamo tra realtà e rappresentazione. Qual è il punto? Visto così ti faccio una domanda filosofica. C'è sicuramente uno scarto tra la realtà e la rappresentazione, diceva giustamente Primo Sansonna, sono macchiette stereotipate, ma visto che mi vuoi far parlare di filosofia, quel film è un universale concreto, come direbbe Hegel, cioè sono tanti esempi reali che in qualche modo incarnano dei modelli che in quanto tali non esistono, però parla molto di una mentalità che è brianzola e che non è solo brianzola, ma che dà forma a molta della realtà della provincia del nord Italia, questo sicuramente. Quindi diciamo, se uno deve trovare un luogo dell'immaginario coerente a quello che vuole dire il film, la spietatezza, il pescecanismo, l'impavida maniera di vivere alle spalle degli altri con l'economia fittizia e tutto, ha fatto bene a scegliere Brianza, poteva scegliere anche l'Emilia, poteva scegliere anche... Diciamo... Forse l'Emilia no, il Veneto probabilmente Veneto. Avrebbe potuto Vabbè, scegliere. Sai, con le vicende molto... avvenute anche nella capitale di investitori fantasma e via dicendo, anche a Roma c'è roba del genere, non è che manca. Ma non è il problema la corruzione, è un certo modo di intendere le logiche, le relazioni, le modalità dei valori, un certo tipo di utilitarismo che certo c'è in tutta Italia, ma in quel tipo di salsa lo si trova particolarmente nelle pieghe della provincia del nord Italia. E da Brianza sicuramente è un archetipo centrale. Ecco, Tommaso La Branca, adesso leggo un sms e ti farà inviperire, però così almeno rendi di più. Che delusione, La Branca parla come il capo della Proloco. Ecco, spiegagli la differenza. Io non sono il capo della Proloco, io parlo perché mi dà fastidio vedere gli errori e ne abbiamo sentito uno adesso, perché Virzì evidentemente non si è documentato abbastanza. Cos'è che ha detto il tipo? Abbiamo letto le tue recensioni sulla Prealpina, La che non è un giornale brianzoso. È un quotidiano di Varese e non della Brianza. Varese è in Subria, quindi si parla di tutt'altra zona, anche se sono contigue, a parte il fatto che Varese e Como si odiano, come dire, Lodi e Crema. Il teatro è Como, il famoso teatro che recupera la Bruni Tedeschi, vorrebbe, è Como, il teatro è girato a Como. Il teatro è Como, perché lui nella stessa intervista di cui parlavo prima, in cui parlava della Brianza cattiva, brutta e fredda, diceva che Como è una città in cui non c'è cultura, hanno solo un teatro chiuso. Io dopo sono andato a leggermi delle lettere, dei blog di livornesi, cioè poi di concittadini di Virzì, che si lamentano di come a Livorno non ci sia una vita culturale. Quindi, e ma anche qui di fronte alla via dove sta Radio 24 a Roma c'è un teatro chiuso. Ma sono dappertutto il teatro chiuso. A Milano c'è il libro da decenni, e insomma, voglio dire, non ti attacchi al teatro. Bisogna essere più attenti. Io non è che sono un apologo. Ma questo non lo assolve il fatto che abbia comunque trovato le contaminazioni fra luoghi contigui e non abbia fatto un'azione anti-Brianzola mirata? No, è proprio che quando uno deve fare un lavoro su un territorio che non gli appartiene, deve informarsi, altrimenti viene fuori l'effetto Faletti quando vuol fare il thriller ambientato in America stando a casa sua ad Asti, viene fuori un pasticcio. Solo Giulio Verne c'è riuscito a parlare di cose che tanto non le conoscevamo. Salgari, ne sappiamo noi delle tigri della Malesia, figurati, può scrivere quel che vuole. Appunto, cosa si sapeva a quei tempi. Il problema è che noi siamo ancora campanilisti, viviamo ancora come nei comuni del 200, quindi dobbiamo occuparci del nostro comune, perché altrimenti vengono fuori veramente delle macchiette, come dicevate prima. Giuseppe Sansonna, chi è riuscito invece a fare delle operazioni coerenti seguendo la stessa traccia, di prendere un territorio, ma un suo territorio, raccontarlo bene? Ma mi veniva in mente Signore e Signori di Germi, quando raccontava un Veneto anche lì che aveva contaminato diversi territori, diverse città, diventando immaginario ma allo stesso tempo molto concreto. Però quelle non erano macchette, ripeto, secondo me all'epoca c'era un respiro diverso nel guardare i personaggi. Questi personaggi sono mutuati dal mondo televisivo, hanno bisogno di questo ritmo da macchette per essere precipiti. Una scrittura diversa. C'è una scrittura diversa, adeguata mestamente o meno ai tempi. Stefano Morigi, perché secondo te è stato un film ottimista questo invece? Sì, per me è stato un film, ovviamente non in generale, l'aspetto dominante non è certo l'ottimismo che emerge, però a seguire la storia dei ragazzi, cioè adesso anch'io non voglio svelare troppo della trama del film, all'inizio compaiono come dei viziati, superficiali, nichilisti, postmoderni, diciamo così. Alla fine, se fai un po' la somma algebrica dei fatti e degli eventi che succedono nel film, sono la parte migliore. Quindi, diciamo, alla fine si nota una traccia non così disfattista, forse colpisce il territorio ma non colpisce quella che è la struttura. Tu sei d'accordo? La struttura della famiglia in fondo, sì, alla fine va bene a tutti, meno che la ciclista. La chiave è forte, che gli adulti sono deresponsabilizzati, sono degli irresponsabili. Beh, vecchio, c'è diciamo un lampo da 20 anni, che c'è un lampo di responsabilità nei giovani. Me l'ha detto anche Vittorino Andreoli l'altro giorno, che è di Verona e ha 80 anni. Quindi la chiave profonda è questo dissidio generazionale, insomma. Grazie Giuseppe Sansonna, grazie Stefano Morigi, grazie Tommaso La Branca, andatelo a vedere il film e poi vedremo se dovremo ritornare sull'idea di quanto il territorio può essere vilipeso da chi non lo abita e quanto è giusta la reazione degli abitanti. A domani.